11. Ascolta e indica se la frase è positiva, negativa o interrogativa. 1. Non trovo il mio cellulare. 2. Puoi parcheggiare la tua macchina qui? 3. Oggi i loro amici non hanno tempo. 4. Lei non vede bene senza i suoi occhiali da vista. 5. Sarete nel nostro corso? 6. I loro amici non parlano inglese. 7. Signora, sono sue le chiavi? 8. Ecco il vostro resto.